Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Arriviamo ad un numero che mi sembra molto importante, quasi vicino ai 50.000 romani che hanno dato il loro contributo. Questa è una consultazione promozionale, diciamo che chi proprio vota più volte che senso ha? Non ha nessun senso. E ripeto, noi questo non è il Valhalla, il giudizio di Dio, è una iniziativa per uscire dal balletto. Mi candido, non mi candido, il lunedì ci sto, il martedì non ci sto, il mercoledì ci ripenso. Tra un decreto legge, un sentimento, opere di bene, sogni ed ambizioni, strade di una favola infinita che portano tutti alla stessa meta. Roma, Rocetta Lezza. 50.000 romani sono andati in gazebo, 50.000 romani si sono espressi su Bertolaso, 50.000 romani si sono espressi sul programma. Cosa vuole di più Repubblica? Vuole il monopolio dei giornali? No. Però noi abbiamo 50.000 voti, non 50.000 votanti. Io li ho visti. Lei ha visto tutti a 50.000? Io li ho visti 50.000 perché ho visitato tutti i gazebi. Lei li ha visti? Diciamo, sono lei consultazioni visti? Basate lei sulla parola. Lei li ha visti? No, lei visto. Li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Lei li ha visti? Repubblica, li hai visti? Li hai visti? Li hai visti? Eh? Li hai visti? Sempre pronti a conservare. Li hai visti? Cibo per i gatti. Nel cortile popolare. Eh? Veronica, li hai visti? Hai visti? Io li ho visti. Li hai visti? Io addirittura volevo come stai? Fare il giro. Come stai? Come stai? Bene, come stai? Come secondo stai? Me l'allegria di Brunetta è contagiosa come stai? La mattina. Come stai? Come stai? Come stai? Signori, sono le 6:31 minuti. Brunetta, esci da me! Oh, esci da me, Brunetta! Veronica, fammi un esorcismo, Veronica Gentili. Oh, esci! Beh, immaginare la sintesi tra te e Brunetta è troppo per tutti. Fallo uscire subito. Brunetta, esci da quel corpo. Brunetta, esci subito da quel corpo. Ecco, è uscito. Come stai, cara Veronica Gentili? Bene, caro. Tu come stai? Bene, tutto bene. Tutto bene? Bene. Bene, sento una punta di milanese in più, quindi stiamo bene. Eccolo lì, l'esorcismo. Ci vuole un esorcismo. D'altronde, ragazzi, sono le 6:32 del lunedì. C'è la nostra Veronica Gentili, c'è anche, voglio subito convocare il nostro Federico Novella. Oh, che palle! Dybala, buongiorno, buongiorno. Arriverà la Champions League. Un lunedì da Brunetta, eh? Sì. Sì, è una dita Brunetta. Come stai? Come stai? Bene, avrei preferito Brunetta dei ricchi e poveri, però bene. Vabbè. Sì. Ma che piacere ritrovarvi tutti insieme. Ma c'è Veronica Gentili e c'è Federico Novella. Ma, certo. Ma che piacere, che simpatico convivio. Federico Novella, dici. Ma piacere mio ritrovare Veronica, che mi hanno detto eri alle gazebarie ieri. A me no? Certo. Cioè, non ho capito, è piacere di trovare Veronica e invece di me non te ne fotte niente. Sì, ma lei questa voce fastidiosa sullo sfondo. Stavo parlando con Veronica. Scusa, era una chiacchierata di serenità, perché si è messo in mezzo sto biondo? Ma che vuole? Non lo so, insiste a parlare, non so. No, ma poi interferenze continue, uno si fa una telefonata, non può stare in piace un attimo e c'è uno che parla facendo finta di essere brunetta. Boh, vabbè, sono cose che capitano. Allora, insieme a Federico Novella, il nostro Fedez, com'è andata la rissa di Fedez? Ma che si è presa a testate, Bruno. Ne sono uscito un po' malconcio, ma sì, ci vuole ben altro, insomma. Ma certo, no? Ma tutto materiale per Gasparri, va bene. Esattamente. Sì. Tutto materiale per Gasparri, la rissa non di dovete Fedez. Sentire la musica la notte fino a tardi. C'eri pure tu a casa di Fedez, vero? Sì, Ale? esatto, si sa. Certo. Io alle feste di Fedez non manco mai. Non manchi mai. Allora No Milano Party a casa Fedez. Devo salutare Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. Dobbiamo aprire anche il Parlamento, ci sono tante cose oggi. Mamma mia, che weekend. Scoppiettante, le gazebane. Le Bertolasarie, come dobbiamo chiamarle? Bertolasarie, confermarie. Ma Veronica, tu c'eri, allora, hai ragazzi, votato. Io hai volevo votato. Farlo anch'io, il giro dei gazebi era una tentazione troppo forte. Sì. Però devo dirti che quando senti quell'allegria del caro Brunetta che è contento così la sera, non vieni anche tu coinvolto per ma primo, certo, no? Ma perché rovinargli il clima? Perché devi rovinargli il clima? Lui è felice, contento così. Erano meravigliosi, i selfie che si sono fatti, lui, Gasparri, Berlusconi, la Rossi a un certo punto, tutti quanti insieme. Gasparri che ieri sembrava posseduto, a un certo punto ha citato il Varalla, non è mica Varalla, il Varalla questo. Grandissimi momenti. Capisco che a sinistra senza i cinesi alle primarie non vi divertite. Però lasciate divertire. Perché invece a sinistra è tutto a posto, Federico, litigano lì. Ragazzi, ma il bello è questo lì. Però. È l'unica priorità che uno aveva, l'unica caratteristica, capito, che uno aveva, peculiarità che uno aveva, finita. A destra si sono fregati anche quella di scannarsi tra di loro, sì, di fare delle primarie completamente surreali con un unico candidato, quella, ragazzi, sì, la retta. Cioè, una cosa del genere neanche a pensarla proprio. C'è da dire che insomma ieri c'è stato un tuffo nel passato, perché io ero anche un po' stufo di vedere questo PD in cui funziona tutto e comanda solo Renzi, mentre invece la guerra c'è a destra. Finalmente è tornato il PD di una volta. No, ma esatto, guerra a destra, ma tra poco le vedremo, guerre contro guerre. Ma sentite Bertolaso, perché Bertolaso, dopo una giornata in cui sono andati a confermarlo evidentemente quelli del centrodestra, poi dopo Giorgia Meloni, attenzione, perché a sera pare che abbia detto mi candido io al suo posto, mi candido io. Ma sentite Bertolaso che va da David Parenzo e Tommaso Labate alla 7 e, come dire, in una frase disintegra decenni di battaglie di genere, donne che si sono battute per avere il diritto a lavorare, a vivere, ad avere gli stessi diritti degli uomini. Arriva Bertolaso in 3 secondi, che ti dice? Meloni potrebbe fare il vice sindaco. No, la Meloni deve fare la mamma, mi pare che sia la cosa più bella ma Bertolaso, la Meloni faccia la mamma. Ma Veronica Gentile, stai a casa e pulisci, stai a casa e fai la mamma. Ale, buono che stamattina hai preso sostanze stupefacenti, stai buono che già abbiamo fatto un esorcismo, due non ci riescono, però lui sa perfettamente che se si già, come si dice a Roma, rischia di fare la fine del sorcio da solo, e l'hanno candidato infatti alle gazebarie da solo, e si candida anche la Meloni, non è che copiano, cioè, aiuto, proprio vedere i detriti. Ma deve fare la mamma. No, ma capisci che c'è anche un pochino di ruggine personale contro la Meloni, che prima l'aveva sostenuto e poi l'ha in qualche modo mollato, dai. Fede, non cercare di spiegarglielo, perché adesso gli è presa con la polemica della mamma, adesso da Brunetta siamo alla Meloni. Ma secondo me è Brunetta che cerca ancora di uscire da di entrare in pure questo corpo. Non vedo altre spiegazioni. Sì, uomo intelligente di Milan non direbbe mai cose del genere. Deve fare la mamma, faccia la mamma, questa è la verità. Comunque, questo a destra, a sinistra invece, mi rimetti la canzone, la musica dell'esorcista? Guarda come No, perché, guarda tu... Per diventare la volpe del tavoliere, eh? No, sentite qua, guardate, vi giuro, io non mi invento nulla, faccio come Beppe Grillo quando dice io non mi invento nulla, e leggeva il giornale, no? Corriere della Sera, pagina 11. Matteo Renzi, nel consueto retroscena, dice questo della minoranza del PD. Sì. Due punti, aperte virgolette, queste persone sono in preda a demoni personali. Allora... Attenzione, ma non è finita, non è finita. Avrebbero bisogno di una terapia di liberazione della rabbia. Cioè, no. Un esorcismo, un no. esorcismo. Sostanzialmente sì. Ma ragazzi, non mi invento nulla, ma non è fantastico questo palestra? È a metà tra l'esorcismo e la psicoterapia, quella che si fa di solito in frutteria la mattina quando vai, no? La psicoterapia la deve fare lui, perché D'Alema ha detto che è un megalomane. Com'è megalomane? Arrogante, sì, è una roba del genere. Forse è stato anche, sei stato anche tenero nella... Quindi uno deve andare... antipatico, detto la verità, insomma, vogliamo dire questo. Vabbè, insomma, viva D'Alema. Niente, ha ragione padre Livio Fanzaga, vince su tutti. Però il vero nemico è il diavolo. Tutti i giornali sono schierati... Il diavolo. Ci vuole un esorcismo della stampa, Federico. Ci vuole un esorcismo per Bersani? Per Bersani, cioè, sì. Questo è il discorso. Guardate, siamo arrivati a questo punto. Ragazzi, diciamo che l'esorcismo per tutti, fuorché per Bersani. Bersani, il diavolo, dove glielo trovi? Abbiate pazienza, dai. Credo di sì. Sentite, mi arriva questo messaggio via WhatsApp. Beh, uno dice che l'unica brunetta che ci piace è Veronica. Ringrazio. Vabbè, questo invece mi chiede sempre in stile brunetta: il Milan lo hai visto? L'hai visto? Ma io che di Milan non so nulla, ho sentito una frase tipo: ma con una squadra del genere non si può fare altro. Altro che esorcismo. Pare che l'abbia detto Mihajlovic, ha ragione. Sai quanto ha fatto ieri il Milan, vero? Io purtroppo ormai prendo soltanto delle piccole notizie sperando di irritarti, esatto. Quindi prendo dettagli, capito? Quindi stai prendendo tempo. 0-0, no, 0-0, no, questo. Brava. Ma soltanto perché leggo il contro play-in. Il Chievo che gioca a No, adesso non lo so. Per quello che mi riguarda, Cagliari, Perugia. Che gioca così, un giorno a Perugia, un giorno a Cagliari. Si sposta, ecco, il Chievo è una squadra itinerante. È una squadra così, è una squadra a Roma. Ma girano così. Liberatevi dai vostri demoni. Esatto, ci stiamo provando qui. Esatto. Vabbè, insomma, no, comunque, allora, capite che a destra litigano perché Bertolaso vince, ma la Meloni dice mi candido io adesso. A sinistra, ragazzi, ma questa storia di Bersani, ma sentite anche Bersani cosa ha detto. Praticamente Bersani ha detto: Renzi governa con i miei voti. Ecco, quindi che ha detto la verità? Un po' sì. Ragazzi, tu. Sì. L'Ulivo l'abbiamo fatto, non l'abbiamo distrutto. L'Ulivo e il centro-sinistra hanno battuto 3 volte Berlusconi. Bisognerebbe anche ricordarsi che pochi o tanti che io abbia preso di voti, Renzi sta governando comodamente con i voti che ho preso io, no? Comodamente coi voti che ho preso io. Beh, Federico, però vabbè, un po' Ho capito, ma non è che i voti che prendi anni e anni fa poi te li porti dietro, allora guarda il capello. Sappiamo tutti che la realtà è che contano i voti in Parlamento, non è che contano i voti che hai preso una volta a Reggio Emilia, dai su, non conta assolutamente niente. Guarda il realismo e la realpolitik del nostro Fedez. Nella realtà, dei fatti c'è gente che ha alzato le chiappe per andare a votare Bersani credendo di andare a dare un voto a sinistra, per carità, opinabile scelte. Chi ancora va a prendersi il gatto a 9 code sulla schiena a votare il PD, quello che volete. Detto questo, è andato a votare Bersani, che ha un capito, certo però... profilo di politico, ed era una cosa, dopodiché per dinamiche interne, perché Napolitano non si è fidato, perché non è stato possibile, prima si è trovato Letta e poi adesso Renzi. Aspetta, hanno cacciato Letta grazie all'appoggio proprio dell'ala sinistra del partito, ricordi? All'appoggio è troppo, diciamo che loro l'hanno sostenuta, ma infatti siano un'espressione tipica che si usa nel giornalismo, dei cazzoni, non lo nego. Detto questo, però, penso che la realtà dei fatti è quello che loro adesso dicono. Chi sarebbero, scusa, quelli Romelì? No, dai, non me lo fa ridire. adesso, ma chi sarebbero? Ah, vuoi sapere? Ma tu l'hai visti? Ma tu l'hai visti? Ma tu l'hai visti? Ma l'hai visti? Ma tu l'hai visti? Ma vedi, adesso mi ritorna Brunetta tutto il giorno, mi twitta Chiara Nicazzoni, Chiara Nicazzoni, Chiara Nicazzoni. Eh no, è finita, capito? Grazie, grazie alla regia, ringrazia. Appena nomini Brunetta parte la cosa dell'esorcista. Cioè, guarda che questo collegamento poi dovremmo andarlo a spiegare a qualcuno, Peter. Magari io li mando a te poi, yes. Vabbè, no, dicevi Veronica, no, la questione di Bersani è che io, anche Bersani, però dai, in questa frase c'è un po' di livore, mettiamola così. Ma il livore c'è sacrosanto, voglio dire, la mancanza di rispetto, ora, loro sono assolutamente stati incapaci di farsi rispettare, sono comunque una fazione importante all'interno del partito, che già è un paradosso quello che sto dicendo, perché una fazione nel partito, le correnti, è tutto ridicolo. Ma il fatto che in tutto questo periodo l'unico atteggiamento che Renzi ha avuto nei loro confronti è stato quello di un'arroganza insopportabile, sempre, e la vicenda Bassolino ne è testimonianza, perché Bassolino non è certo un oppositore, è un renziano e lo dichiara lui per primo fregiandosene. Che bisogno c'è di avere quell'arroganza e quella spocchia a posteriori dopo le elezioni? C'è stato un problema di brogli? È fatto così. Purtroppo la politica funziona così: se lui ha la maggioranza nel partito, tu te ne vai, fai la scissione. Oggi, ragazzi, Bruno Vespa lo dice. Gli farete un gran favore a Renzi. Cosa? In un'intervista al Giorno dice: Renzi è il più cattivo di tutti, Renzi è il più spietato di tutti. Ha ragione Federico. Cioè, in questo momento governa lui. Ma certo che è molto più cattivo. Non a caso l'antipatia di D'Alema fa ridere. Non lo so, vedremo, perché poi quando D'Alema dice che comunque il contenitore che lui sta formando finirà col fargli perdere un'enorme fetta di voti, io lo penso. Ma dai, ma io penso di no, io penso il contrario. Tutti con Fassina, tutti con avanti. Lo vedi? Lo vedi? Questi sono i discorsi pressappochisti. Poi dici: perché ti chiamo sciocchina? Non lo so io perché ti chiamo sciocchina. Sì, mi chiama sciocchina, gli piace così. È una sciocchina, dai. Adesso tu fingi di negarlo, ma noi lo chiamiamo sempre sciocchina quando ci sentiamo, Fede. Alessandro, vai a fare la mamma, che meglio. Vai a fare la mamma. Sciocchina. Allora, sciocchino 1, sciocchina 2, devo andare al traffico. Adesso vi sistemo io. Tu intanto, Veronica, mandaci il tuo consueto selfie. Tu, Io aspetto il selfie di Veronica. Tu mandaci un selfie del camionista rumeno, la foto del camionista rumeno che è appena sorpassato. Anzi, ti prego, fai la foto mentre guidi in curva a 110 in tangenziale. Vai. Ma noi vogliamo una foto a petto nudo con tutti i tatuaggi, Fede. Ragazzi, la prossima volta, magari. Altro che Brunetta, l'ormone di Veronica Gentili, il traffico. Penso che ho caratteristiche giuste, quelle caratteriali e morali per fare bene questo mio lavoro. Poi, come ho detto prima, se non ci riesco io, allora bisogna chiamare un esorcista per fare le cose. Milano, è tutto marcio in Italia, tutto marcio. Gli unici che pagano sono i lavoratori e i pensionati. Questi nefasti fiorentini, storicamente portatori di sventura, i guelfi, ghibellini, bianchi, neri, cerchi, donati, perfino Dante inveiva contro i suoi concittadini fiorentini, e noi li abbiamo al governo. Oh Alino, ci mancava solo che Matteo Renzi dicesse: spezzeremo le reni ai giornalisti stranieri. Italiani, preparatevi. Oggi Renzi annuncerà che non pagheremo più l'autostrada. Mila, e sono Fiorentino, L637, stammi a sentire. Fai sentire da Veronica Gentili. Falla fare di calcio, che di politica ci affisce una sega. Ciao. Tutti dal Fiorentino. Ce li abbiamo anche al governo, questi. Capito, vengono tutti da lì. Tutti da lì chi? Adesso esci da questa situazione. Tutti chi? Esci da questa situazione, esci tutti da questo corpo chi? Il mantra della giornata. Il nostro simpatico amico che ha così questa predilezione per me. E il ma guarda che al suo modo dà insulti anche a me. I fiorentini fanno così, i toscani fanno così. È il modo per essere. È il loro modo di manifestare l'affetto. Certo, come no. Ma Renzi non fa così. No, no, no, no, ma sì, ma in simpatia, a bischero, a disgraziata, vi è qua anche di peggio. Sì, insulti in allegria. Insulti in allegria, sì. Insomma, sì, in Toscana si va così, insomma, ti insulto, quindi andiamo a bere un caffè insieme. Certo. Ho capito, infatti, va bene. Va bene, è tutto chiaro. Io la interpreto così. Senti un po', Federico, tu che farai alle 9? Di che ti occupi? Della divisione del PD? Sai che ci sono bar che oggi, invece che alle 5, hanno aperto alle 4:30 per permettere alle persone di discutere di cosa sta succedendo nel Partito Democratico. No, guarda, preferisco parlare di altro. Preferisco parlare di sicurezza. No, le cose di partito è meglio non entrarci, perché è di difficile comprensione, sì, questo. Sì, non so se hai notato. È difficile comprensione anche a loro, figurati. Anche a loro stessi. Quindi anche tu adesso hai fatto, Milan, il megafono alle teorie di Matteo Orfini, che la gente non ha nessun interesse a sapere quello che succede nelle correnti del PD. Dispiace dare ragione a Orfini, dispiace un po', però... nella frase capisci c'è qualche cosa che non va. Quindi dispiace, il fatto che tu abbia dato ragione a Orfini ti deve spingere a interrogarti e farti domande fino a stasera. Ma Orfini è un grande milanista, ti informo di questa cosa. Grande cuore rossonero. Se questo sta qui a Roma a fare il presidente del PD romano, è pure milanista. È un grande cuore rossonero e quindi va bene così. Però D'Alema un po' ci mancava, diciamoci la verità. Diciamolo. Sono assolutamente d'accordo. D'Alema ci mancava, sì. D'Alema è come il gong, che ogni tanto serve, capito? Esatto, è un po' come il selfie di Veronica Gentili, che ogni tanto arriva e ti inonda con la sua foto, con i suoi capelli. Dopo avermi detto che il mio selfie è come D'Alema, anche io dovrò pensare tutto il giorno. Vabbè, ma dai, non è che ho detto che è come D'Alema. Comunque il selfie... Lancio un appello agli ascoltatori affinché vengano lì direttamente a boicottarti, a farti degli attentati in radio dopo vorremmo un selfie con dei baffi finti oggi, esatto. Ero tentata di fare l'omaggio a Baffino, A Baffino, va bene. Invece c'è problema anche nel Movimento 5 Stelle, dove la candidata, ex candidata di Milano, la Bedori, non so come si chiami di nome, si è ritirata, ha detto non ce la faccio. A chi ha dato la colpa? Ma di chi è la pressione mediatica? Io sono una cittadina comune, sono una cittadina prestata alla politica. La pressione mediatica che tutto questo ha provocato intorno alla mia persona non la reggo. Non la reggo. Gli è salita la pressione mediatica. Esatto. Allora, vabbè, esatto. Che dobbiamo fare? Capisci, c'è una pinzillacchera, una bazzeccola non reggere la pressione mediatica in campagna elettorale. È una cosa da poco. Ma voleva fare solo il sindaco di Milano alla fine, esatto. Mica voleva fare chissà cosa. Sì, ma il sindaco senza pressione, senza troppi patemi d'animo, sì. Senza tutto troppi per non dire la verità, e cioè che Casaleggio non l'ha voluta perché non è telegenica, dai, diciamocelo. Questo è il motivo vero. Federico, io ti ringrazio perché tu hai avuto il coraggio di dire ciò che tutti pensano e nessuno dice. Non sto dicendo che se ne deve andare perché non è telegenica, ha detto che l'arrampicata sugli specchi, vai. Ma Veronica, queste cose contano in campagna elettorale, queste cose contano, ma il problema è che il movimento l'ha cacciata perché non è telegenica, l'ha costretta alle dimissioni perché non è telegenica, capisci? Sì, ma infatti credo che il concetto di pressione mediatica di cui lei parla è anche questo, non è soltanto tutta quella che è la pressione mediatica che c'è per tutti, ma è quando una scelta comunque non è realmente condivisa e ci sono delle perplessità di fondo da tutta dalla base, da chi sta dietro, diventa particolarmente difficile. Lì bisogna però mettersi d'accordo, vale lo streaming, il voto online, oppure vale come sei fatta, come sei telegenica, capisci? Ma io sono perfettamente d'accordo. Ma infatti uno dei problemi principali del Movimento 5 Stelle, e mi sembra che infatti gli si sia ritorto contro innumerevoli volte, è quello della selezione della classe dirigente. Cioè è un problema che loro ancora non hanno risolto, non è semplice. Poi a volte hanno avuto più fortuna, altre volte meno, però anche in tutte le circostanze regionali ci sono stati tutta una serie di casi in cui chiaramente ma è chiaro, ecco. Che insomma questa cosa però è un po' grave, devo dire, per un movimento due mesi dalle elezioni, cioè che dopo tutta la campagna elettorale cambiare il candidato, no, poi possiamo stare qui a discutere, Veronica, se il fatto che uno debba essere una bella donna per candidarsi sia una cosa